Salva Danaio di Deborah Rosciani. E bentornati a tutti a Salva Danaio, una buona giornata da Deborah Rosciani. Qualcuno è più tranquillo e organizzato, per qualcuno invece si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo per raccogliere la documentazione necessaria a compilare il modello 730 relativo ai redditi che abbiamo percepito lo scorso anno, da consegnare entro il 30 aprile al sostituto d'imposta o entro il 31 maggio ad un professionista abilitato o a un centro di assistenza fiscale. Oltre a rimettere ordine fra carte e documenti, ricevute, scontrini e fatture, nel caso volessimo fare un lavoro individuale di ricerca di informazioni sulle detrazioni, deduzioni e incentivi fiscali a cui abbiamo diritto o sulle tasse che dobbiamo versare, da domani può aiutarci la guida completa al 730, la guida ad una dichiarazione dei redditi del Sole 24 Ore, che sarà in edicola, in vendita con il quotidiano. Ricordo che non è appunto un allegato gratuito, è una guida molto completa, molto articolata, in vendita ad un prezzo di 5,90 euro più il prezzo del quotidiano. Un tema importante quello che affrontiamo stamattina. Abbiamo già cominciato da qualche settimana il percorso verso una serena dichiarazione dei redditi ed è un appuntamento che riguarda, come sapete, almeno 17 milioni di contribuenti. Si stima che siano questi quelli che compilano il 730. Allora, alla luce di tutto questo preambolo, stamattina vi dico già che la passeremo intanto con Marco Peruzzi del Sole 24 Ore, che ci darà soprattutto una lettura in anteprima mondiale della guida. Marco, bentornato. Nato a Salva Danaio. Grazie Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E poi l'esperto per le vostre domande, non perché Marco non sia un esperto, ma l'espertone della mattinata, il nostro Luciano De Vico, che è tra gli autori della guida, si è occupato in particolare di alcuni temi, per esempio la proroga delle detrazioni del 19% in diversi campi, la tassazione dei redditi percepiti da eredi, gli sconti fiscali di spese sostenute per i figli e tante altre cose. Luciano De Vico, buongiorno, bentornato anche lei a Salva Danaio. Buongiorno a voi tutti. Tra l'altro voglio anche ricordare che Luciano De Vico, per i curiosoni che lo volessero vedere anche in viso, visto che lo conosciamo solo telefonicamente, almeno gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono solo telefonicamente, è anche protagonista del videocorso alla compilazione del 730 che i lettori del Sole, ma anche i radioascoltatori di Radio 24 possono seguire. Marco, vogliamo subito spiegare come fare prima di sentire la scheda, prima di raccontare la borsa? Togliamoci questo sassolino nella scarpa, ma in realtà un sassolino piacevole. Sì. L'offerta che il Sole 24 Ore dà per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi è molto articolata e non riguarda soltanto la carta, ma anche altri mezzi come appunto internet. Beh, sicuramente il primo passo è questa guida che sarà in edicola da domani per un mese con in abbonamento con il Sole 24 Ore, che è una guida alla corretta compilazione del 730, una guida sufficientemente facile, tale da consentire la compilazione al fai da te, oppure comunque un utile supporto per chi professionalmente fa questa attività del 730, quindi CAF e anche liberi professionisti. La guida è appunto in edicola da domani, è divisa in diversi capitoli che vanno dalle caratteristiche del modello alle novità di quest'anno, perché come al solito tutti gli anni ci sono numerose e novità che riguardano o deduzioni e detrazioni nuove o proroga di vecchie agevolazioni. Pensiamo per esempio al 55% per i lavori che presuppongono un risparmio energetico in casa, oppure il vecchio 36% sulle ristrutturazioni edilizie. E poi ci sono tutta una serie di precisazioni sui redditi che devono essere dichiarati, sulla famiglia, quindi le detrazioni per i figli a carico, il peso del coniuge e quant'altro, e la casa soprattutto, fino ad arrivare poi al prospetto di liquidazione, che sostanzialmente è la guida compilata, e alla scelta per la destinazione dell'otto del 5 per 1000. Quindi diciamo che abbraccia tutti i quadri del modello 730. Ma appunto l'offerta del Sole 24 Ore non si limita a questa guida. Tra l'altro, alla fine di ogni capitolo della guida ci sono una selezione di domande e risposte che i lettori del quotidiano certo, hanno possono fatto. Possono essere un po' rappresentative dei casi di chiunque. Sono state selezionate, diciamo così, perché sono quelle più frequenti, più generali, e sono riportate alla fine appunto di ogni capitolo. L'offerta segue anche su internet. Su internet anche in questo caso a partire da domani ci saranno degli approfondimenti sul 730, ci sarà disponibile tutta la documentazione utile, pensiamo per esempio alle circolari o alle risoluzioni che in quest'ultimo anno l'Agenzia delle Entrate ha diramato proprio in materia di dichiarazione dei redditi e sostanzialmente nel sito questo approfondimento è suddiviso in due sezioni. In una sezione che è ad accesso libero ci sono i quadri interattivi per la corretta compilazione del modello. Che cosa significa? Significa ritrovarsi nella pagina di internet il modello 730 e avere la possibilità, con riferimento soprattutto alle novità più importanti di quest'anno e alcuni casi particolari, di digitare nello specifico campo per ottenere tutta la descrizione per la corretta compilazione. E poi c'è un videocorso, quello che appunto citavi tu prima, Debora, tenuto da Luciano De Vico, in 6 puntate, in cui vengono analizzate anche in questo caso le caratteristiche del modello nella prima e poi le novità di quest'anno, i redditi da dichiarare, la famiglia e la casa, la salute e gli altri sconti, che è il capitolo evidentemente più importante perché è quello che consente poi di fruire effettivamente di agevolazioni fiscali, e infine la liquidazione, i rimborsi e i debiti, in cui appunto in questo videocorso Luciano De Vico spiega le modalità per una corretta compilazione. Benissimo, poi, abbiamo quindi fatto la guida della guida, Marco, ancora altro da aggiungere? Sì, la seconda sezione, che in quella invece qui si accede tramite un codice che è riportato a pagina 2 della guida cartacea. Tramite questo codice è possibile, grazie a un apposito software, compilare il modello e stamparlo anche per la consegna. Benissimo. Tra l'altro, al termine della compilazione è anche possibile chiedere e ottenere quindi l'assistenza fiscale delle sedi di AssoCaf e della Consulta Nazionale dei CAF, che hanno aderito a questa iniziativa. Ultimissima cosa, ci sarà anche un forum, cioè una sorta di filo diretto con i lettori. I lettori potranno inviare la propria domanda, le risposte a queste domande saranno pubblicate sul giornale nei giorni venturi. A quale indirizzo lo ricordiamo dopo, Marco? Ce l'hai già a disposizione? www.ilsole24ore.com/guida730. Benissimo, lo ricorderemo ripetutamente nel corso della trasmissione. De Vico, non sono ancora riuscita a farla ad intervenire, però io direi anche di mandare in onda la nostra scheda, la scheda che la nostra Gaia Romani ha preparato con tutti gli altri punti da ricordarci per questa stagione di dichiarazione dei redditi. Ancora pochi giorni e la stagione della dichiarazione dei redditi prenderà il via, come di consueto, con il modello 730. Il 30 aprile scade infatti il termine entro il quale i contribuenti devono consegnare la dichiarazione al proprio sostituto di imposta, datore di lavoro o ente pensionistico. Chi invece sceglierà di avvalersi dell'aiuto di un CAF o di un commercialista avrà tempo fino al 31 maggio. La presentazione relativa alla dichiarazione dei redditi 2009 dovrà essere accompagnata da documenti, scontrini e fatture che saranno necessari per ottenere eventuali sconti e detrazioni. Tra questi, gli attestati degli acconti d'imposta versati direttamente dal contribuente o trattenuti dal sostituto d'imposta, gli scontrini relativi a spese mediche di determinato genere e le fatture e le ricevute relative a pagamenti effettuati nel 2009 per gli oneri deducibili o detraibili. Tra le spese per cui è possibile ottenere le detrazioni, ricordiamo l'acquisto di mobili, televisori e computer per l'arredo di immobili ristrutturati e che prevedono una detraibilità del 20%, la detrazione del 55% per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico e quella del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia. È inoltre prevista una detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità, del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e una detrazione del 19% per le spese sostenute per gli asili nido. 800 24 00 24, non vi ho ancora ricordato il numero verde per intervenire, ma gli affezionati non solo di Salvadanaio lo sanno benissimo che hanno questa modalità per chiacchierare con noi e fare le domande ai nostri esperti. 349 238 6666 il numero invece per i messaggi. De Vico, prima di addentrarci nelle scadenze e nelle novità di quest'anno, di questa dichiarazione dei redditi 2009-2010, c'è un tema molto importante, non riesco magari ad affrontarlo subito in maniera approfondita, però vedo che esattamente come è successo nella puntata che abbiamo organizzato a questo argomento la scorsa settimana, viene anche oggi segnalato da molti ascoltatori. Il presupposto per fare la dichiarazione dei redditi è che l'azienda ci abbia rilasciato il CUD, la certificazione dei redditi percepiti lo scorso anno. Molte persone l'anno scorso hanno perso il lavoro, le aziende non hanno potuto sistemare i propri conti, molte aziende non stanno rilasciando questo documento. È un grosso problema quest'anno, credo anche per voi commercialisti. È un grosso problema perché il CUD rappresenta, come dicevi tu all'inizio, il punto di partenza del modello 730, che è rivolto ovviamente ai lavoratori dipendenti e pensionati, nel senso che per poter accedere alla compilazione del 730 occorre necessariamente avere un sostituto di imposta che liquida il modello e che quindi poi restituisce l'eventuale credito in busta paga oppure preleva il debito eventualmente anche a rate. In assenza del CUD manca anche l'elemento fondamentale, cioè la attestazione delle ritenute, e quindi chi non lo avesse ancora ricevuto e deve darsi da fare e sollecitare il proprio datore di lavoro a rilasciarlo. In assenza del CUD dovrebbe essere possibile un tentativo di ricostruire la posizione reddituale attraverso per esempio le buste paga, però anche lì poi quindi non fare il 730 ma fare l'unico, però anche lì poi diventa particolarmente complesso andare a dimostrare un domani all'Agenzia delle Entrate che quelle ritenute sono state effettivamente subite. In buona sostanza è un problema che va risolto perlomeno entro la fine del prossimo mese, data il 31 maggio per consegnare. È che noi avevamo allertato gli ascoltatori perché il CUD deve essere rilasciato entro fine febbraio. È chiaro che chi ancora non ce l'ha si sta preoccupando, magari ha delle spese mediche da scaricare, le spese per il mutuo e quant'altro. E quindi c'è un'ascoltatrice, Anna, di qualche anno, di Venezia, che voleva intervenire telefonicamente, ma la faccio io direttamente questa domanda. 70 anni, immagino che il CUD le debba arrivare dall'ente di previdenza. C'è un ritardo anche su quel fronte, ma non ci risulta. Come mai potrebbe non essere arrivato l'ascoltatrice? Potrebbe non essere arrivato. In tal caso potrebbe essere utile anche andare nella sede provinciale dove è l'ente pensionistico e chiedere una copia. Benissimo. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Stamattina abbiamo ripreso il tema della dichiarazione dei redditi, la compilazione del 730. Abbiamo lanciato la guida che uscirà domani con il Sole 24 Ore, dandovi anche tutte le indicazioni per poterla non solo leggere perché è di facile lettura, ma per poter utilizzare anche la guida interattiva che il Sole 24 Ore ha organizzato sul sito internet www.ilsole24ore.com/, che è la barra di traverso, guida 730. Con noi stamattina ci ha spiegato tutto il funzionamento di questo nuovo strumento Marco Peruzzi del Sole 24 Ore, il nostro esperto, che è anche uno dei autori di questo videocorso, Luciano De Vico, dottore commercialista esperto di questioni fiscali per il Sole. Comincerei con le domande degli ascoltatori. Tra l'altro, De Vico, parlavamo prima delle persone che l'anno scorso hanno perso il posto di lavoro, che pertanto le aziende non hanno ancora disciplinato bene la chiusura anche dell'attività, pertanto fanno fatica a rilasciare i CUD, il presupposto, come dire, formale per la compilazione del 730 per molti lavoratori dipendenti o ex dipendenti a questo punto. Un ascoltatore, rimanendo all'ambito del lavoro, ci scrive: Franco, nel 2009 ho cambiato lavoro, ho incassato il TFR già tassato, il trattamento di fine rapporto. Lo deve dichiarare comunque nel 730? Sarà nuovamente tassato? No, assolutamente no. La tassazione del trattamento di fine rapporto è già stata operata da cura del sostituto di imposta. Eventualmente, adesso questo varia in base anche all'epoca in cui è stato assunto e quindi la normativa fiscale è piuttosto complessa sul punto. Qualora ci dovesse essere un conguaglio da pagare, sarà la stessa Agenzia delle Entrate che emetterà una cartella di pagamento senza sanzioni e senza interessi per richiedere eventualmente il conguaglio. Però il TFR, così come gli emolumenti a tassazione separata, quelli che sono evidenziati, diciamo, nella parte bassa del modello CUD, non trovano spazio più, né nel modello 730 né nel modello unico. Benissimo. Sempre rimanendo all'ambito del lavoro, Gianluca da Roma chiede: è regolare che il datore di lavoro mi addebiti i costi di compilazione del 730? Non so, forse qua Marco scuoti la testa, magari si è affidato ad un CAF. Dovrebbe essere gratuito, l'assistenza diretta da parte del sostituto di imposta è gratuita. Altra cosa invece riguarda il CAF, allora in quel caso lì è evidente che tu gli porti semplicemente, perché per il datore di lavoro l'hai già compilato e precompilato il modello 730, il CAF ti aiuta invece nella compilazione e quindi in quel caso lì è normale che il lavoro vada retribuito. Allora, cominciamo a sentire invece gli ascoltatori che ci chiamano all'800 24 00 24. Il primo a prenotarsi stamattina è stato Massimo dalla provincia di Cuneo, che saluto, gli do il buongiorno. Massimo, eccoci a lei. Buongiorno a voi tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica. Senta, volevo chiedere, io ho avuto la perdita di mio papà e ho venduto la casa a mio fratello. Sì. E come lavoratore dipendente devo fare il 730 o il 740? Allora, questo è un tema del quale si è occupato Luciano De Vico sulla guida, quindi casualmente devo girarle la domanda. De Vico? Il fatto che abbia venduto la casa, innanzitutto occorre sapere se l'ha venuta nel 2009. Aver ereditato la casa comporta evidentemente anche la compilazione del modello 730, si ritiene, indicando nel quadro B dei fabbricati la rendita catastale del fabbricato del padre, la quota di possesso, per esempio il 50% con il fratello, la quota di possesso è diverso, e il numero dei giorni in cui lui è stato possessore di questa abitazione. Poi ci penserà il CAF o il professionista a calcolare l'ammontare del reddito che andrà a cumularsi con gli altri redditi. Posso risentire, sì. Fare il 730. Paolo Corleone, posso risentire? Massimo da Cuneo ancora in linea. Massimo, l'ha venduta lo scorso anno la casa? Sì, l'ho venduta lo scorso anno. Siamo stati chiari con la risposta? Sì, sì, sì, la ringrazio. Grazie a lei. Patrizia da Padova, buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa. Buona giornata. Anche a lei, ci dica tutto. Piccolo problema, neo pensionata artigiana. Quest'anno per la prima volta farò il 730. Sì. Mi sto trascinando da alcuni anni alcuni crediti d'imposta. Con il 730. Visto che tutto dovrebbe essere un pochino più facile, no? Sì. Appunto, perché non, la rimborsabilità era a babbo morto. Con il 730 da quest'anno abbiamo la pertinenza per cassa, per cui non posso più richiedere il credito d'imposta degli anni precedenti, o posso comunque rivendicarlo negli anni successivi? Benissimo, Patrizia, mi sembra una bella domanda. De Vico, come può orientarsi la nostra ascoltatrice? Allora, se negli anni precedenti l'ascoltatrice ha presentato il modello unico, può tranquillamente prendere il credito, quello che è stato indicato per intenderci nel modello, nel quadro RX del modello unico degli scorsi anni. Ma che non gli è ancora stato mai liquidato? Certo, ovviamente, infatti stavo per dire, sempre che ovviamente non sia stato chiesto il rimborso, in tal caso bisogna comunque attendere. Se invece è stato indicato nel quadro RX tra le eccedenze che sono da computare negli anni successivi, può riportare questo credito nel rigo F3 del modello 730. In questo caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale dirà al sostituto d'imposta, ente pensionistico in questo caso, di erogarlo con la pensione subito dopo la presentazione del modello. Magari quindi ne avrà diritto. In ogni caso l'Agenzia delle Entrate anche nel passato ha detto che i crediti, anche se non sono riportati nelle dichiarazioni dei redditi successive, non si perdono mai. Sì, speriamo, insomma, perché l'ascoltatrice ha detto mi sto trascinando, sicuramente non si perdono, ma certo che ce li fanno veramente sudare. Allora, il 730 è utile, è uno strumento utile proprio per questo, per recuperare immediatamente i crediti, anche quelli degli anni precedenti. Benissimo, allora Marco Peruzzi fra qualche minuto deve lasciarci e tornare rapidamente in redazione, per quello che è la parte di tua competenza anche organizzativa sulla nuova guida. Marco, ci siamo dimenticati di dire qualcosa, poi l'ultima parte la dedicherò a pressare ancora Luciano De Vico con le domande dei nostri ascoltatori. No, abbiamo tutto. Ricapitolando, oltre alla guida cartacea, anche in internet c'è un servizio molto ampio sul modello 730. Abbiamo detto intanto la possibilità di accedere ai quadri interattivi per la corretta compilazione, il videocorso in 6 puntate, e poi per quanto riguarda un'altra sezione che è molto legata alla guida cartacea, perché nella guida c'è un codice che bisogna utilizzare poi in internet per accedere a questa seconda sezione, c'è la possibilità tramite un apposito software di compilare il modello e stamparlo per la consegna. Inoltre, ultima cosa, ci saranno ulteriori ricadute nei giorni prossimi anche sul quotidiano, perché nello stesso sito internet www.ilsole24ore.com/guida730 apriremo un forum, una sorta di filo diretto con i lettori, i quali avranno la possibilità di inviare una domanda sul 730 e vedere pubblicata la risposta a questa domanda nei giorni successivi sul Sole 24 Ore. Benissimo, allora aspetta ancora un secondo, non alzarti al volo, faccio fare una domanda ad un ascoltatore, Marco dalla provincia di Campobasso, che ci permette di introdurre tutto ciò che attiene alle spese anche per far studiare i figli fuori città, ma ci sono anche percorsi di studio di altro genere che possono essere, come dire, fiscalmente sostenuti. Marco, buongiorno, ci faccia subito la sua domanda. Buongiorno a voi. Sicuramente troverò risposte nella guida che avete appena menzionato domani. Benissimo, comunque, ci aspettiamo. Visto che mi ci trovo, ci aspettiamo un acquisto questo... allora da Campobasso, grazie. Se si poteva portare in detrazione le tasse universitarie ed eventualmente anche l'affitto regolarmente registrato di mio figlio che è all'università, certo. L'affitto di casa con c'erano due cose che potevo comunque consegnarle per la detrazione. Dove l'ha mandato a studiare Marco? A Urbino. Ah, benissimo, nelle Marche. Non è che l'ho mandato, ottima scelta. Guardi, sono cioè... contento perché direi. Piace una cittadina tranquilla. Mi hanno detto che è una cittadina a misura di studente. Sta scherzando, guardi come è venuto su bene Marco Peruzzi, che è di là. Sono di Urbino. È proprio Urbinate, sì. Quindi insomma, vabbè, vive marchigiani, non sta neanche a me dirlo. Marco, volevi rispondere tu a questo caso? Giriamo no, la domanda dire, a Luciano. Giriamo alla Luciano, che senz'altro è molto più preparato di me. Però volevo rispondere una cosa: sugli studenti ci sono una serie di agevolazioni, comunque dal punto di vista fiscale. Alcune riguardano anche, per esempio, il trasporto, l'abbonamento, però, che è una delle novità dell'anno scorso, questa in realtà. Per l'affitto anche ci sono numerose agevolazioni, bisogna vedere poi il tipo di contratto, adesso ce lo dirà Luciano, il tipo di contratto sottoscritto. Benissimo, De Vico. Sì, allora, eccoci per quanto qua. Riguarda le spese di istruzione che riguardano anche se sono devono essere sostenute nel 2009, anche se si riferiscono ad anni differenti, per la frequenza delle università italiane, anche le università straniere, sia università pubbliche che università private, in quest'ultimo caso c'è una limitazione, nel senso che le tasse per le università private sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti italiani statali. Trovano spazio nel modello 730 nel rigo E13 e danno diritto a una detrazione d'imposta nella misura del 19%. Stessa detrazione anche per le spese sostenute per canone di locazione, deve trattarsi di spese sostenute da studenti universitari iscritti ad università situate in un comune diverso però da quello di residenza, e il contratto di locazione deve essere stato stipulato ai sensi della legge 431 del 1998. Benissimo. Dall'anno scorso in più c'è anche una detrazione sempre nella misura del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, oltre anche agli atti di assegnazione in godimento, per esempio quelli stipulati con gli enti per il diritto allo studio, i collegi universitari, eccetera. Quindi il nostro ascoltatore potrà sicuramente essere accontentato. Le spese che sostiene e fa bene per mantenere il figlio che studia appunto fuori dalla città d'origine sicuramente potranno essere detratte. Allora, ci dobbiamo fermare. Suggerimenti per chi in viaggio. Saluto Marco Peruzzi. A grazie presto Marco, mille, buon lavoro con la vostra guida. Ci ritroviamo in diretta ancora qualche minuto dedicato alla vostra dichiarazione dei redditi. Questa mattina ci aiuta Luciano De Vico, che ha coordinato insieme agli altri esperti del Sole, insieme a molti colleghi del Sole 24 Ore, la guida al modello 730 per una dichiarazione senza errori che da domani e per un mese sarà in edicola con Il Sole 24 Ore, però vi ricordo che è venduta in via separata, costa 5,90 euro, più va pagato il prezzo del quotidiano. Allora, De Vico, c'era un ascoltatore che ci chiede, anche questo un tema che veramente ci pongono continuamente. Emanuele chiede: avendo comprato nell'agosto dello scorso anno un frigorifero classe A per la prima casa, chiedeva se potesse detrarlo. A pagina 23 ci sono tutti i dettagli su questa detrazione, che è stata introdotta con una finanziaria del 2007, praticamente era la legge 296 del 2006. De Vico. Sì, infatti, si tratta di una detrazione nella misura del 20% per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, però devono essere gli apparecchi, innanzitutto deve trattarsi di una sostituzione e quindi occorre anche dimostrare di aver restituito il vecchio frigorifero. Rottamato il vecchio frigo. Esatto, sì. Cioè deve essere scritto, documentato che il vecchio frigorifero è stato prelevato e poi che deve trattarsi di un apparecchio di classe energetica non inferiore ad A+. Come ricordavi tu, in effetti sì, la detrazione è una detrazione vecchia che è stata peraltro anche prorogata fino al 2010 dalla finanziaria dell'anno scorso, dalla finanziaria 2008, e si può detrarre, dicevamo, un importo pari al 20%, ma la soglia massima della detrazione è di 200 euro per ciascun apparecchio. Per quello che riguarda invece peraltro gli incentivi fiscali che sono stati varati di recente per gli elettrodomestici di massima classe energetica che potranno e vorranno essere acquistati quest'anno, siccome questi incentivi potranno essere chiesti a partire da dopodomani, dal 15, domani la puntata di Salvadanaio sarà dedicata a questo argomento. I rivenditori dovrebbero essersi messi a posto. A questo punto è tempo che i consumatori invece facciano le loro scelte per capire quali cucine nuove o elettrodomestici nuovi comprare per poter usufruire dei nuovi vantaggi fiscali. Quelli di cui abbiamo parlato in questo momento attengono alla partita vecchia di incentivi, ma insomma ci sono ancora. Sentirei adesso Fabio da Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io volevo sapere se il contributo GSE per il fotovoltaico sì. È un reddito da dichiarare in dichiarazione dei redditi. Allora, qua abbiamo il tema delle detrazioni attinenti al tema del risparmio energetico. GSE, il gestore, credo che si riferisca al conto energia, Fabio? Sì, esattamente. Perfetto, ce la facciamo ad aiutarlo? È un po' troppo tecnica per lei, De Vico, gli rispondiamo dopo all'ascoltatore. Dunque, io avevo bisogno di sapere delle cose sì. aggiuntive, cioè della tipologia di contratto che è stata effettuata, delle modalità di erogazione del contributo e quant'altro. Peraltro, ce la facciamo, sì, Fabio, magari a dare due informazioni al volo un po' più dettagliate a Luciano De Vico? Sì, il contributo è quello dello scambio sul posto, il contratto. E cos'altro doveva sapere? Scusi. Sì, che cos'altro serviva, Luciano, per dare qualche argomentazione in più a Fabio? Che tipo di contratto è stato effettuato, e cioè quello dice di scambio sul posto. Facciamo una cosa, allora sul fotovoltaico, magari siccome è un po' più complicata la questione, richiamiamo Fabio, gli facciamo magari argomentare un po' meglio anche tutta la questione relativa Infatti. Alla tipologia del contratto e gli rispondiamo a parte, perché questo è un tema che ha veramente dei connotati abbastanza complessi, perché dipende dal tipo di apparecchio che si acquista, dal tipo appunto di contratto, diceva Luciano De Vico, che si sottoscrive, quindi siccome è molto articolato è abbastanza difficile dare una risposta generica. Fabio, abbia pazienza, allora vado a Claudio dalla provincia di Bergamo. Claudio? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. La ringrazio moltissimo della chiamata. Dunque, io sono un medico di famiglia in pensione, sono sì. andato in pensione nel maggio del 2008, per cui l'anno scorso è stato fatto la denuncia di redditi con il 740 dal commercialista, sì. con il CUD. Perché c'era una parte, diciamo così, di professionalità fino a maggio e poi dopo è andata la pensione. Mm-hmm. Quest'anno io devo fare 7,30 o devo fare sempre 7,40? A parte che ci sono, va bene, c'è l'abitazione. Sì, allora, dunque, intanto lei ha nel 2009 percepito esclusivamente reddito da pensione. Ecco, c'è da dire due cose. Sì. Uno, io continuo ad essere iscritto all'ordine dei medici, mm-hmm. quindi non so se questo rappresenta poi la possibilità di detrarre quella piccola cifra che io... La quota di iscrizione. Perché magari sì. anche in famiglia qualche ricetta la faccio ancora, anche mm-hmm. sul foglietto bianco. E poi, siccome c'era in essere un contratto della categoria, questo contratto è stato siglato nel 2009. È stato rinnovato, credo, quindi l'hai ricevuto. Ecco. E io ho percepito un adeguamento. Una cifra degli anni pregressi, che era 2005, 2006, 2007, di circa 5.000 euro. Mm-hmm. quello che mi chiedevo è se questa cifra può essere ritenuta come tassazione separata. Ho capito. Allora, aspetti lì, stamattina De Vico la faccio veramente cimentare in tutto di più. Allora, cominciamo col dire che se nel 2008 ha cessato l'attività di medico di base, avrà cessato anche la partita IVA. Quindi, giustamente, correttamente, l'anno scorso è stato presentato il modello unico e quest'anno può tranquillamente presentare il modello 730. Il modello 730, naturalmente, va presentato all'ente pensionistico che eroga la prestazione pensionistica. Il rinnovo del contratto gli ha fatto ottenere a questo ascoltatore un arretrato di circa 5.000 euro. Come va disciplinata un po' la gestione di questa somma? E queste sono somme che dovrebbero andare assoggettate a tassazione separata e quindi indicate evidentemente attraverso la procedura dell'indicazione nel modello del quadro F del modello 730 degli arretrati che sono stati appunto soggettati a tassazione separata. Bisogna anche in questo caso vedere ovviamente il trattamento fiscale. Benissimo, allora io direi prima di sentire gli ultimi due ascoltatori che erano in attesa, ho come sapete un altro impegno da qualche giorno. Un impegno che ci sta portando verso il Salone della Gestione del Risparmio che si svolgerà a Milano il 21, il 22 e il 23 aprile. Un evento italiano molto importante, interamente dedicato al settore del risparmio gestito. Allora, in vista di questo appuntamento, anche Radio 24 sta portando avanti il suo percorso per spiegarvi quali sono le parole del risparmio. La parola di oggi è rischio-rendimento. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. Rischio e rendimento sono due concetti da sempre associati quando si parla di investimenti, ma non solo. La relazione tra i due identifica l'equazione generale. Ad un maggior rischio corrisponde un maggior guadagno. Nella definizione dell'asset allocation delle proprie risorse, la tolleranza al rischio svolge un ruolo di primo piano. Non tutti hanno infatti la stessa propensione al rischio. C'è chi sopporta meglio i tempi difficili e chi invece ne soffre maggiormente. In finanza, ciò si traduce nella forza d'animo con cui si riesce a vedere il valore del proprio patrimonio diminuire giorno dopo giorno, per effetto dell'andamento avverso dei mercati finanziari. Se ci si sente forti abbastanza per continuare a dormire sonni tranquilli, allora può essere consigliabile una strategia più aggressiva, che sovrappesi maggiormente le componenti più volatili dell'investimento finanziario. Se viceversa si è più sensibili all'andamento delle borse, allora è opportuna un'allocazione moderata delle risorse, che privilegi le classi di investimento meno volatili, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Per raggiungere guadagni più elevati, si devono quindi assumere rischi maggiori. Questa considerazione è valida per qualsiasi tipologia di strumento finanziario, dai classici titoli di Stato ai moderni prodotti finanziari più sofisticati e rischiosi. Ovviamente, i rischi associati ai diversi strumenti finanziari a disposizione dell'investitore sono decisamente differenti. Salone del Risparmio a Milano dal 21 aprile. Iscriviti gratis a salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato le parole del risparmio. E adesso invece ci sono le parole dei saluti, perché non riusciamo a far intervenire altri ascoltatori, anzi sono già fuori tempo massimo. Luciano, buon lavoro e a presto e alla prossima puntata. Grazie molte, ma per chi avesse la curiosità di vederlo com'è, naturalmente può collegarsi al sito del Sole 24 Ore per seguire appunto questo videocorso condotto da Luciano De Vico e da altri giornalisti del Sole 24 Ore. Vi ricordo l'indirizzo internet www.ilsole24ore.com/guida730, da domani in edicola la guida, la compilazione del 7.30 del Sole 24 Ore. Noi ci risentiamo lunedì, perché da domani fino a venerdì ci sarà con voi Valentina Furlanetto. Io ritorno lunedì prossimo e a tutti buona giornata.